Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Giuseppe Garibaldi. Povero Giuseppe Garibaldi, di lui si è detto di tutto e fatto di tutto. L'ultima è la storia della foto del generale ferita a una gamba, che si è scoperta falsa. Gli hanno dedicato una via in ogni borgo, i sigari toscani più famosi, lo hanno usato per pubblicizzare perfino il gran carnevale romano sulla Tiburtina. Lo ha messo di mezzo nel 1948 per tirare il carro del fronte popolare, se ne è appropriato Craxi, gli hanno dato fuoco in effigie a Vicenza quelli del movimento veneti con tanto di cartello eroe degli immondi. Su ogni sito forum dell'orbe internetiano in cui si è citato si apre una ridda di commenti pro e contro. Marinaio, patriota, condottiero, massone, generale, senatore, grande amatore, anticlericale, arrabbiato, avido e crudele, generosissimo ed eroico. Torna alla mente Totò, in destinazione Piovarolo, coinvolto nel tentativo di far dire a un vecchio garibaldino morente che il generale a Bixio, la famosa frase «Caro Nino, qui si fa l'Italia o si muore», l'aveva condita con un aggettivo. Popolare, no, socialista, no, fascista. Povero Peppino. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.